Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis. Stasera parliamo di un'esperienza che si è svolta a Torino, nel quartiere di San Salvario, un quartiere storico, a due passi dal centro, che ha vissuto un momento travagliato nella sua storia recente, che ora però sembra proprio superato. San Salvario oggi è un quartiere multietnico, abitato da moltissimi studenti e con un mix equilibrato, composto da un po' tutti i ceti sociali, cosa piuttosto rara oggi. La storia di San Salvario è quella della riscossa dei suoi stessi abitanti e da un luogo simbolo, una specie di reattore chimico, la casa del quartiere. Ce ne parla Chiara Albicocco, che ha intervistato il direttore dell'Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario, Roberto Arnaudo. Sentiamo com'è andata. San Salvario è un quartiere storico della città di Torino, molto vicino al centro della città. È un quartiere particolare perché è un quartiere molto mescolato, lo è stato sempre, di persone di provenienza diversa. È un quartiere bello che però negli anni, a partire dalla seconda metà degli anni 90, è stato oggetto di un flusso migratorio molto forte che ha prodotto molti conflitti e difficoltà. Quegli effetti negativi in parte sono stati superati recentemente e adesso è un quartiere molto attrattivo per la popolazione torinese e per le persone che vengono da fuori. Quindi un quartiere ormai molto abitato da studenti, da persone che vengono a vivere qui perché è attrattivo, insomma, perché è bello. Ecco, un quartiere abitato da tutti i ceti sociali, multietnico, addirittura ci sono 4 comunità religiose con le chiese relative, quindi diciamo multietnico, e il quartiere in questi anni ha sfruttato questa vivacità per diciamo rinascere da quella fase un po' di degrado. Il quartiere è riuscito, diciamo, il quartiere, insomma, tutti quelli che hanno lavorato perché si raggiungesse questo risultato, è riuscito a trasformare degli aspetti che erano problematici, critici, in elementi di innovazione e di attrattività. Ecco, veniamo al dunque, come avete fatto? Quello che è stato fatto in questi anni è particolare, nel senso che è stato fatto da molte persone. Diciamo che una delle caratteristiche della nostra attività e delle trasformazioni di questo quartiere è che hanno visto l'attivazione di molti cittadini attivi, di associazioni, di gruppi che si sono attivati spontaneamente in positivo per costruire una convivenza migliore e che hanno trovato un supporto nell'amministrazione locale, nella città di Torino. Sono successe moltissime cose, non c'è stato un unico piano, un unico intervento, un unico progetto, ci sono state una moltiplicazione di iniziative, di servizi e di attività che alla fine hanno prodotto un risultato. Diciamo che il volano, la spinta forte sono state queste associazioni, quindi i cittadini. Ovviamente il supporto dell'amministrazione comunale è ovvia, però diciamo che non è stato un investimento dal punto di vista economico, ma proprio un investimento dal punto di vista affettivo e di partecipazione delle associazioni cittadine. Tanto che diciamo che lo strumento un po' simbolo di questo quartiere viene rappresentato dalla casa del quartiere. Ecco, probabilmente i torinesi lo conoscono, chiederei invece per chi non lo conoscesse di descrivercelo, che cos'è, che spazio è. Ma la casa del quartiere è uno spazio molto bello che è stato ristrutturato 2 anni fa, sono ex bagni municipali, c'è un immobile pubblico comunale che era totalmente abbandonato. Cioè i bagni pubblici? Bagni pubblici però abbandonati da molti anni, quindi totalmente degradati. La mia associazione, l'Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario, è riuscita a reperire alcune risorse, alcuni fondi privati per la ristrutturazione, ha costruito una partnership con la città di Torino, con il comune, che ha messo altre risorse per la ristrutturazione. Abbiamo ristrutturato questo posto che adesso funziona come una specie di casa del quartiere, nel senso un posto frequentato da categorie di persone molto diverse, cioè anziani, giovani, stranieri, immigrati, senza nessuna prevalenza, che coinvolge centinaia di gruppi, associazioni, gruppi informali che fanno attività molto diverse tra loro, sia attività culturali, sia attività di supporto sociale, sia attività ricreative, ludiche, quindi un servizio continuativo 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera, offre un'offerta culturale e sociale molto significativa per il quartiere. Cioè diciamo che non ci sono degli spazi gestiti da determinate associazioni, determinate persone, ma chiunque può usufruirne, diciamo, mettendosi in lista. Sì, diciamo che è un posto molto accessibile. Accessibile perché quando si entra non si deve chiedere il permesso a nessuno, si può entrare, non ci sono guardie all'ingresso. È accessibile perché si può venire qui sia per fruire di una qualche opportunità, di un corso, di un laboratorio, di una presentazione, di una proiezione, di una rappresentazione, di un servizio di supporto sociale, eccetera, eccetera, ma si può venire anche qua a proporre delle attività, e molte persone lo fanno, sia associazioni che gruppi di singoli cittadini, di semplici cittadini, che propongono un'attività di varia natura che noi cerchiamo di coordinare, accogliere, e che fa sì che il nostro centro offra un programma di attività, di iniziative continuative molto massiccio con bassissimi costi. Ci fa qualche esempio, ad esempio questa settimana che cosa si è organizzato? Ma noi abbiamo tutta una serie di attività che sono, diciamo, continuative, che avvengono durante la settimana e che sono attività, corsi e laboratori di ogni genere, per bambini ma anche per adulti, teatro, musica e così via, che sono per esempio il sabato la ciclofficina, che sono i servizi e le attività che qui realizza la Banca del Tempo. La settimana scorsa abbiamo avuto per esempio, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una serie di iniziative molto, molto, molto interessanti che hanno attirato molte persone, proiezioni, spettacoli, dibattiti, laboratori psicologici e così via. Tutte sono organizzate in questo modo, cioè non dall'alto, ma attraverso la proposta e la partecipazione di cittadini, gruppi e associazioni. Arnaldo, qualcuno che volesse seguire il vostro esempio, che consiglio può dare, insomma, a parte la ricerca di fondi? Dal punto di vista del meccanismo di funzionamento, se si segue un po' il modello che noi abbiamo adottato, la Casa del Quartiere diventa uno strumento anche di autofinanziamento. Noi riusciamo ad autofinanziarci per il 75% delle spese complessive, svolgendo noi un'attività prevalentemente di pubblica. Ci fermiamo qui, appuntamento domani per parlare di illuminazione stradale. Buona serata.